Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. I Padri Eterni, eccoli qua, buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Ciao Matteo, ben ritrovato. Ciao Fede, ciao. Mi sta guardando strano. Ti sto guardando strano perché tu sai domani cosa succederà nella maggior parte delle regioni d'Italia, no? Si torna a scuola. Questa è stata una settimana, l'ultima settimana di rincorsa, ma il vero banco di prova, metaforico e non, partirà proprio da domani. Ma perché credo che ogni famiglia abbia fatto le prove questa settimana. Appunto nel mettere all'interno del caos mattutino la sveglia, il pigiama, lo zaino eccetera eccetera, anche i 5 minuti per provarsi la febbre. Certo. Fai? Ti provi la febbre mentre fai colazione? O ti provi la febbre mentre la ti lavi i denti? Mentre cerchi di prendere il pulmino al volo? Insomma, questa cosa che insomma è importantissima, è fondamentale, però sono quei 5 minuti. Insomma, sono 5 minuti meno di sonno, ragazzi, quindi questa cosa costerà tanto alle famiglie. Padri Eterni at radio24.it, come sempre vi ricordo che potete scriverci, radio24.it invece è il nostro sito per riascoltare poi il podcast. Si parla di padri, si parla ai padri, come facciamo ogni domenica, con tante storie, tante testimonianze e oggi anche qualche presa in giro. Capirete poi perché. Apriamo questa puntata con una polemica, giustissima tra l'altro, che ribalta anche le polemiche sulla questione di genere, no? Dove solitamente tutto è al maschile, le mamme vengono dimenticate, insomma tante volte ne abbiamo parlato. No? È una polemica che io condivido fortemente. Certo, anche perché ti sei battuto per anni, no? Per appunto cercare di togliere dal gergo comune la parola mammo, no? che infatti qua si va un po' oltre. Una polemica allora giusta che appoggiamo e appunto ne parliamo con l'autore, diamo il benvenuto a un amico anche dei Padri Eterni, abbiamo già raccontato la sua storia, Carlo Tumino, blogger, papà per scelta, dove hanno l'hashtag anche con la quale stanno raccontando la loro storia. Ricordiamo l'esperienza di una coppia omosessuale con due bimbi nati grazie a una maternità surrogata negli Stati Uniti. Abbiamo parlato con loro qualche tempo fa, ma la polemica ora va in tutt'altra direzione. Ciao Carlo, ben ritrovato, buona domenica. Ciao a tutti, buona domenica. Ciao Carlo. Ciao Matteo. Allora, tu hai fatto due conti, cambi circa 12 pannolini al giorno, giusto? Esatto, più o meno. Quando va bene. Okay. Quando va molto bene. Però hai preso carta e penna per scrivere al dirigente, insomma, di un noto brand appunto che si occupa di salviette e pannolini. Perché? Ho preso carta, penna e calamaio, lasciando perdere momentaneamente il termometro, semplicemente per raccontargli di una situazione che mi ha lasciato perplesso. Stavo cambiando mio figlio e aprendo la scatola, insomma, di salviette igienizzanti, c'era scritto un bel grazie mamma, al che ovviamente mi sono sentito un attimino escluso, no? Si fa un gran parlare di campagne che cercano di raggiungere una parità sociale, economica, e in realtà poi ci troviamo dinanzi sempre al solito stigma, al solito stereotipo, che è la madre che si deve occupare della cura primaria del bambino, quando è un'attività che io faccio tutti i giorni, tante volte al giorno. Ma tra l'altro, Carlo, guarda, sembra raccontata così quasi una questione di lana caprina. In realtà, come dire, no, come spesso ci capita anche in trasmissione di ricordare, dietro il linguaggio che usiamo, dietro le immagini ricorrenti che si adoperano, si nasconde poi la vera discriminazione e il vero pregiudizio. Sottolineo che tra l'altro questa cosa non vale solo per voi in quanto coppia di padri, ma per tutti i padri, no? E tra l'altro, come tu ben dici, giustamente, nella leggevo, no, l'intervista che ti hanno fatto, cioè questa non è una discriminazione solo per i padri, è una discriminazione soprattutto per le mamme e per le donne. Corretto. Perché esatto. Vengono identificate continuamente con questo stereotipo di persona che è l'unica, come dice, detentrice, no? del momento della cura, della presenza, eccetera, e chiaramente in questo modo automaticamente viene esclusa magari da tutto il resto. Ma ti aggiungo anche un altro pezzetto. Io credo fortemente che quella che è la santificazione o la beatificazione della maternità non è altro che il rovescio della medaglia del patriarcato, della misoginia. E secondo me proprio lottare nello stesso fronte, come dico sempre io, è una battaglia che non ha genere, è tanto al maschile quanto al femminile, tanto dei padri quanto delle madri, perché se noi vogliamo veramente che ci sia una definitiva emancipazione delle donne dal ruolo appunto di angelo del focolare domestico, ci deve essere anche un aumento delle responsabilità di quello che devono effettivamente fare i padri. E quando io ho pubblicato questa lettera, poi un paio di giorni dopo mi sono ripubblicato un altro post che raccoglieva un po' quelli che erano i commenti ricevuti a questa lettera. E quello è stato un altro, probabilmente è stato un modo per far capire quanto sia necessario in questo paese parlare concretamente di disparità di genere. No, quello è vero, anche perché sono tanti padri, no, ma ti scrivono a noi, cioè, come scrivono a te, che vogliono esserci, vogliono starci, sono consapevoli, vogliono giocare con i loro figli, vogliono abbracciarli, vogliono curare anche la parte affettiva, insomma, certo. Vogliono esserci, punto, questa è la giustamente. E Carlo, ma ti hanno risposto dall'azienda allora, in questione? Sì, mi hanno risposto diciamo facendo una gaffe che io definisco un po' un epic fail, insomma abbastanza clamoroso, perché mi ha risposto il social media manager con una risposta interlocutoria, come sempre, per non prendere posizione, da una parte dicendomi che si scusavano perché comunque il brand in questione è uno di quei brand che comunque tutti i giorni cerca di portare avanti la parità di genere, soprattutto con delle campagne di comunicazione durante la festa del papà. Come se bastasse fare una campagna l'anno per dimostrare a tutti quanti che comunque tanti padri quanto le madri si occupano della cura primaria dei bambini. Però la vera gaffa è stata l'emoticon finale. Okay. L'emoticon finale con un uomo, una donna e due bambini. Perfetto. Quindi in pratica non aveva studiato. No, assolutamente studiato. Quindi io insomma dico sempre facciamo attenzione, perché poi i social, voglio dire, sono anche uno strumento straordinario, però ovviamente insomma in alcuni casi come appunto è successo a noi, attenzione, perché in questo caso c'è una discriminazione della discriminazione. Quindi prego sempre tutti quanti sempre di informarsi, di approfondire, perché cavoli, insomma è veramente necessario. Sì, sì, è anche facile informarsi grazie ai social. Papà, esatto. Ricordiamo papaperscelta.it, il vostro blog, seguitelo perché è veramente ricchissimo di spunti e testimonianze. Ciao Carlo, grazie. Ciao ragazzi, buona domenica. Ciao a tutti. Carlo. Buona domenica a te. Noi adesso ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. School Rocks, la scuola spacca. Tira sulle pagine, la musica attacca. School Rocks, la scuola spacca. E capisci anche l'H. School Rocks, la scuola spacca. Tira sulle pagine, la musica attacca. School Rocks, School Rocks, School Rocks, Rocks, Rocks. Sveglia, è ora. ora di imparare ad imparare. Non c'è un maestro solo che lo possa insegnare, perché un solo maestro da un punto di vista, e per vedere il resto te ne serve una lista. Ci serve un matematico per non dare i numeri, aggiungici un filosofo per pensieri effimeri. Insomma c'è uno storico che dica com'è andata, e un fisico quantistico che dia un'accelerata. Data una rata prepagata. Sì, insomma andiamo a scuola, lo avete capito, lo abbiamo detto anche poco fa, insomma, che domani di fatto in tutta Italia inizieranno le lezioni. Qualche ragazzo, qualche ragazza ha già cominciato. Sì, sì. Beh, hanno cominciato molti asili nido, per esempio. Certo. Quindi. E insomma, tante domande, no, in questo anno scolastico. E poi ci sono anche le domande di sempre, comunque, le attenzioni di sempre, le trappole in cui noi genitori, in cui noi padri cadiamo sempre. E quindi credo che sia veramente illuminante il nuovo libro di Luigi Ballerini, amico dei Padri Eterni, psicanalista, scrittore affermato e amatissimo dai più giovani, che ha pubblicato proprio venerdì, è uscito quindi da un paio di giorni, un saggio intitolato Appuntamenti non agguati con San Paolo. Ciao Luigi, buona domenica, ben ritrovato. Oh, bene, bene, che bello essere ancora qua. Ciao Luigi, benvenuto. Grazie. Che bello anche un libro sulla scuola, dove di fatto non c'è la parola scuola nel titolo, ok, c'è dopo nel sottotitolo, vivere bene la scuola oggi. Però hai messo al centro questo termine, appuntamenti. Cosa vuol dire guardare, pensare alla scuola con l'occhio, con lo sguardo appunto dell'appuntamento? Guarda, era proprio quello, no, che mi interessava, il punto che mi interessava toccare, perché appuntamenti non agguati. A volte parlando con i ragazzi, no, soprattutto quando sono spaventati o fanno fatica, hanno un po' come l'idea che andare a scuola è come andare in una giungla, no, dove devi difenderti perché c'è qualcuno che ti salta addosso, ti fa del male o appunto ti tende degli agguati. Concepire la scuola come un appuntamento o come una serie di appuntamenti è ribaltare questa prospettiva. Perché la logica dell'appuntamento è che innanzitutto c'è qualcuno che lo pone, okay. Per cui qualcuno mi invita, ma il concetto dell'appuntamento implica che io ci stia, quindi che aderisca, quindi che vada, e poi che quando sono lì ci metta anche qualcosa di mio. Quindi è proprio un po' l'idea di una scuola che non è un puro travaso di saperi, no? Cioè è proprio l'idea che si gioca sul rapporto, quindi l'insegnante offre qualche cosa allo studente, ma lo studente non è solo lì per ricevere, lui stesso è lì per offrire qualche cosa all'insegnante. Allora, dentro questa dinamica di un incontro normato come quello della scuola, poi si dà questa cosa incredibile, bellissima, che è l'apprendimento. No? Però se ci pensiamo, apprendere attivo, cioè è prendere con le mani, fare man bassa di quello che arriva, insomma ancora una volta richiede la partecipazione completamente attiva e tutta l'adesione dello studente. Ma è proprio un cambio di paradigma, no? La scuola che deve diventare scelta e non più un ordine. Ma tra l'altro, Luigi, guarda, nel tuo bellissimo libro, che tra l'altro consiglio caldamente a tutti i padri e a tutti i genitori, c'è in uno dei primi capitoli, no, quella domanda fatidica che purtroppo quel tranello nel quale cadiamo sempre, no? Noi padri, noi genitori. Come è andata oggi? Che è il nostro agguato quello, no? quando torni da scuola, no? Questa frase, tu dici, contiene due riduzioni. Ci spieghi meglio perché e quale domanda possiamo sostituire a questa, magari? Certo, la prima riduzione è che noi riduciamo la vita del ragazzo alla scuola, no? Dove di fatto la scuola è una grandissima parte, tutti noi che ci siamo stati sappiamo quanto ha occupato del nostro tempo, del nostro pensiero, ma la vita di un ragazzo è molto di più, no? Certo. Della scuola. E la seconda riduzione è riduciamo la scuola al voto, quindi al risultato. E anche qui, se noi solo ci ricordassimo che cosa accade nei corridoi, che cosa accade sulle scalinate mentre si sale, cosa accade nei bagni, cosa accade, no, quegli incroci, quegli sguardi, capiamo che è molto di più di questo, no? Allora la domanda, il nostro motto, direi che dici bene, no? Come è andata oggi è un test per noi. La questione è, quando chiediamo cos'è andata oggi, chiediamo come è andata oggi o chiediamo che voto hai preso? Perché spesso si riduce a questo, no? Certo. E allora operiamo questa riduzione, che magari il ragazzo, la nostra ragazza ci dice ho preso 8 in inglese, e noi diciamo wow, che bello, ma magari è successo che il mio migliore amico mi ha umiliato all'intervallo e allora non è affatto bello, oppure ho preso 4 in inglese e tu dici oh, che giornataccia, e in realtà Martina si è accorta che la crema che ho messo sui capelli l'ho messa proprio per lei, o la felpa nuova era per lei, e allora, come dicono loro, chi se ne del 4 di inglese lo recupero, ma è una giornata bellissima. Allora era l'invito a aprire lo sguardo e a considerarli nella loro totalità, quindi non come dei performer che devono portarci dei risultati, ma come dei soggetti che vanno a scuola pieni di speranze, di attese, di desideri, e, no? E allora ci siamo interessati a capire anche chi ne è stato di questo, certo, di questa messe di bellezze, di, a volte anche di paure che a volte noi non consideriamo o trascuriamo. Luigi, senti, ti faccio una domanda difficilissima confidando nella tua capacità di sintesi. C'è un pezzo meraviglioso di Isaac Stern citato in esergo in apertura del libro, no? Quando Isaac Stern racconta, mi pare durante l'apprendimento dello studio del violino, dice: cominciai ad imparare davvero quando d'un tratto diventai il mio maestro. Ora, come possiamo fare noi padri a spingere i nostri figli in un certo senso a diventare anche maestri di loro stessi? Guarda, mi ha fatto di guida questo, no, questo passaggio di Stern, tra l'altro la sua vita raccontata da foto, per quindi questi due colossi, no, del Novecento. Però Stern ce l'ha detto, dice: quando iniziai a scoprire ciò che ero in grado di fare e avrei la percezione delle possibilità di quanto ancora di più avrei potuto fare, fu il momento in cui le cose cambiarono. Allora deve scattare il non lo fai per me. Difatti me lo dico spesso ai ragazzi: ma guarda, non puoi pensare che studi per far contento la mamma o il papà, ma certo, poi la loro soddisfazione è anche la nostra, ma a un certo punto proprio capire che ci sono io, no? Sono io il protagonista, sono io che mi comprometto dentro quel rapporto bellissimo che è con il mio insegnante e con i miei compagni, ma sono io che devo trovarci qualche cosa, devo trovarci il gusto e metterci anche qualcosa di mio. Allora l'invito è proprio quello del: sei tu il protagonista, non devi davvero farlo per me, ma semmai posso provare ad aiutarti a capire, no, se no, in un momento in cui sei confuso e ti sembra tutto nebuloso, che cosa fa più per te, allora no, possiamo metterci a esplorare insieme, ma sempre con l'idea che sei tu, no, che certo, vai avanti e io ti accompagno. Appuntamenti non agguati di Luigi Ballerini, edito da San Paolo. Tra l'altro ci sono due appendici bellissime, una su quello che i nostri figli dicono e non dicono e un'altra sui i film che ci aiutano a capire meglio. E Luigi, prima di salutarci, proprio in conclusione, al di là del libro, insomma, volevo una tua riflessione su questa cosa su cui sto ragionando in questi giorni. Riparte la scuola, ok, l'abbiamo già detto, con tutte le difficoltà del caso. Come noi padri possiamo essere vicini ai nostri figli affinché tutto il problema Covid non diventi un alibi, anche se sappiamo quelle che sono tutte le preoccupazioni, giustamente, no, che ci sono, però c'è anche il rischio che ci si c'è il Covid, quindi si studia meno, le relazioni diventano cose più fragili, si mette meno cura. Come possiamo fare noi padri per evitare questo? Guarda, siccome loro continuano a guardarci anche quando crescono e anche quando sono più grandi, io credo che davvero dipenda molto da come noi ci poniamo di fronte alla realtà. Quindi più di quello che diciamo è come noi stiamo affrontando questo periodo, no? Come affrontiamo il nostro lavoro, siamo spaventati, ci giustifichiamo noi, no? Diventa un alibi anche per noi o ci buttiamo dentro la realtà? Allora, aver davanti un padre che senza negare difficoltà è impegnato con la realtà per come può, per come riesce, è il modo migliore perché gli faccia venire voglia di ma allora è possibile. Quindi io direi essere seri noi con la nostra attività, quindi non usarla come alibi e sostenerli. Io direi che i verbi sono sostenere e incoraggiare. Grazie Luigi, ciao e buona domenica. A voi, grazie. E rimaniamo a scuola, Matteo, lo facciamo grazie a una mail che abbiamo ricevuto da un nostro ascoltatore, che ha una bellissima storia. Lui è un chimico, poi a un certo punto ha mollato l'azienda per fare il professore part time, ma adesso fa qualcos'altro ancora e dice che da domani, cioè da lunedì, comincerà la rivoluzione grazie al suo parco della gratitudine. Diamo il benvenuto a Maurizio Maglioni. Ciao Maurizio. Ciao Federico. Ciao Maurizio, benvenuto. E abbiamo dimenticato di dire che grazie. Anche padre di cinque figli, quindi soprattutto padre sa di cosa stiamo parlando quando parliamo di padri eterni. Ciao Maurizio, buona domenica. Sì, più eterni di me sono, perché il più grande ne ha 30, 37, il più piccolo ne ha 11, quindi sì, sono quasi eterno, ecco. È vero, sei proprio dimostrazione di tutto ciò. Cosa succede dal 14 settembre, cioè da domani, grazie al Parco della Gratitudine? Da domani apriamo veramente la scuola, cosa che invece dopo tutte le promesse non sembra poi molto possibile in tutto il resto dell'Italia. Noi l'apriamo veramente, poi anche perché la nostra non è una vera scuola, ma è una cosa che chiamiamo appunto Parco della Gratitudine, su web parcodellagratitudine.it, perché non è una vera scuola? Perché noi è un sostegno all'homeschooling, sono insieme a me altri genitori, ci siamo messi insieme per aiutare i nostri figli ad imparare qualche cosa in un modo diverso rispetto a come si insegna nella scuola normale. Per esempio, noi utilizziamo molto la pedagogia di Rosenberg, senza premi e senza punizioni, perché bisogna imparare per responsabilità e non perché qualcuno ti obbliga. Non facciamo interrogazioni, non facciamo quelle cose che si fanno, le lezioni frontali per esempio, ma lavoriamo molto sul web, quindi facciamo in modo che gli studenti, i nostri studenti, i nostri figli, mm-hmm, e coloro che anche ci danno i figli per poterli aiutare in queste cose, possano imparare qualche cosa attraverso lo sport, attraverso la natura, attraverso la nostra amicizia, lo studio insieme e tanti laboratori che facciamo. Un altro modo di scuola, Maurizio, ci fermiamo il tempo delle meteo, della pubblicità, poi torniamo immediatamente da te. Ogni storia ha nel mezzo un confine, una linea da varcare oltre la quale la vita cambia. A Linee d'Ombra raccontiamo proprio queste storie, le vostre. Guardatevi alle spalle, cercate quella linea che avete oltrepassato e vi ha reso chi siete ora. Una linea d'ombra che vi ha fatto scoprire parti nuove e diverse di voi. Piccoli o grandi momenti che modificano l'arco della nostra vita e ci trasformano per sempre. Storie di infanzia diventata età adulta, di sport che ci ha trasformato, di passioni che ci hanno plasmato, ma anche piccoli episodi quotidiani che hanno tracciato un prima e un dopo. Se volete raccontarceli, scrivete un paio di pagine e mandatecele a lineedombra@radio24.it. Se volete ascoltarle, dal lunedì al venerdì, alle 15, solo su Radio 24. Io sono Matteo Caccia e le storie le racconto per voi. I cantanti Ghali e Mahmoud, le scrittrici Jaba Shego, Sumaya Abdelkader, ma anche l'infermiere Javier Chunga e la dottoressa Samar Siniab, morti di Covid mentre curavano i loro pazienti in Italia. Queste e altre sono le storie dei nuovi italiani. Sono Valentina Furlanetto. Vi aspetto con i figli di Enea ogni domenica alle 14, naturalmente qui su Radio 24. Padri Eterni. Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i Padri Eterni, ancora mezz'ora insieme, poi c'è il podcast volendo radio24.it, il nostro sito, ma potete anche scriverci padrieterni@radio24.it, come ha fatto Maurizio Maglioni, l'ospite con cui stiamo parlando, con la sua esperienza appunto di homeschooling. Nelle difficoltà del tornare a scuola, in effetti si sta parlando molto di homeschooling in queste settimane, quindi del fare scuola a casa, ma come funziona? Cioè, uno fa scuola ai propri figli o sono più figli di più famiglie che si mettono insieme? C'è solo una casistica o vale tutto? Beh, guarda, per fare scuola da solo ai propri figli bisogna avere una grande cultura, una grande passione e anche esperienza, quindi è difficile fare l'homeschooler in queste condizioni. E invece se ci si mette insieme ad altri genitori, questa cosa diventa possibile, perché ognuno ha la sua specializzazione. Poi se qualche genitore fa di mestiere anche insegnante, ancora meglio. Ma noi abbiamo fatto molto di più, perché a Roma abbiamo creato una struttura, a Roma Nord, via della Giustiniana, dove si fa anche tanto sport, tanta natura, nei laboratori si impara facendo, si impara l'informatica e le lingue straniere con delle esperienze di vita, delle esperienze sfidanti, gratificanti, insomma. Poi siamo sempre in contatto con la realtà del mondo del lavoro, perché tutti noi abbiamo anche lavori esternamente, quindi non siamo solamente insegnanti, siamo tutti quanti genitori con esperienze di vita e possiamo anche accompagnare i nostri bambini, i nostri ragazzi nei nostri luoghi di lavoro, o anche fare gite domenicali insieme. Certo. Ecco, l'apprendimento cambia completamente aspetto, la scuola diventa veramente inutile. Ma Maurizio, senti, spendiamo due parole su questo concetto, no, di scuola capovolta, di classe capovolta che tu stai portando avanti, che tra l'altro ricorda, no, un pochino quello che diceva prima anche il nostro ospite Luigi Ballerini, cioè è un metodo che di fatto ribalta il metodo tradizionale, lo dicevi prima, abolendo le lezioni frontali, trasferendo magari a casa il momento di studio e di ricerca. Mi verrebbe da dire, è un metodo per attribuire maggiore responsabilità agli studenti e ai nostri figli? Senz'altro, perché ci sono praticamente due modi di fare educazione. Uno è mettere paura e una seconda è dare fiducia. Mettere paura, anche tu non devi per forza terrorizzare, anche uno sguardo, anche un modo di fare i compiti, altrimenti vi metto un brutto voto, eccetera. Questa cosa del mettere paura, che è il modo con cui siamo vissuti noi quando eravamo a scuola, oggi non funziona più. Abbiamo deciso di dare fiducia, di usare la pedagogia della fiducia. E la pedagogia, con la pedagogia della paura, oltretutto i potenti governano, Quindi non è una cosa nuova. E la scuola, che invece sarebbe un piacere, se fosse vissuta come con la pedagogia della fiducia, invece può diventare qualcosa di noioso, di terribile, se invece viene vissuta come un momento dove si fanno le cose, perché altrimenti, se non lo facessi, ho paura che potrei subirne le conseguenze. Certo. Questa principalmente è la nostra pedagogia. Ok. Allora Maurizio, io ti dico apertamente che io sono difendo sempre comunque la scuola pubblica, ok? Quindi ci sono anche esatto. Non abbiamo niente contro la scuola pubblica. Il problema è che se una cosa non funziona devi trovare qualcosa che funzioni. No, assolutamente. Magari ma la scuola pubblica, esatto, io sono non sempre funziona. Per fortuna ci sono ottimi professionisti anche lì e insomma ci sono situazioni che funzionano. Però no, volevo capire questo da te, perché per essere un padre, no, che si mette in gioco, vuol dire avere tempo, vuol dire avere competenze, vuol dire avere anche coraggio, non lo nego. Ma, più che altro quello. Ma secondo te è giusto che un padre sia anche insegnante? Ma io non sono un insegnante, cioè almeno lo faccio di mestiere, ma noi in questa scuola ci chiamiamo tutor, perché non insegniamo. Non siamo educatori, siamo persone che accompagnano come farebbe per esempio un'agenzia di viaggi, che non ti accompagna a fare il viaggio, ti fa vedere quali sono le mete e quali sono i tuoi obiettivi e ti insegna ad andare da solo. Questo è quello che facciamo in questa scuola, insegnare autonomia perché i ragazzi raggiungono da soli i loro obiettivi, non quelli che gli imponiamo noi. E con questo sistema otteniamo ragazzi che poi quando vanno a fare gli esami si trovano benissimo, perché sanno parlare in pubblico per esempio, sanno risolvere i problemi, sanno cavarsela perché hanno sempre imparato a lavorare in gruppo e in gruppo ha avuto sostegno anche psicologico fra di loro, ed è un altro mondo rispetto a un ragazzo che è stato invece sempre in silenzio nel suo banchetto, seduto magari con la mascherina, a pensare in un mondo futuro dove magari potrà fare qualcosa di buono. No, noi li facciamo vivere adesso. Diamo ai nostri figli e ai nostri amici la possibilità di imparare qualcosa che gli serva veramente nella vita. Maurizio, un sito di riferimento per chi volesse più informazioni? parcodellagratitudine.it, per coloro che vogliono fare esperienza come questa di sì, homeschooling. Però solamente a Roma, perché purtroppo è la prima volta che abbiamo una sede a Roma. Per tutto il resto dell'Italia il riferimento è flipnet.it, che è l'associazione degli insegnanti capovolti. Perfetto. Che fanno corsi di formazione agli insegnanti che vogliono imparare questo metodo. Grazie. Abbiamo formati già 7.000, speriamo di formarne ancora. Buona domenica, ciao Maurizio, grazie davvero. Ciao, ciao. Buona domenica, ciao ciao. Vacation is over. You can quit if you wanna, but I'm going back to school. You know I miss that old long-nosed teacher of mine. I'm going back to school. I'm gonna get me a diploma, or I'll die trying. Si torna a scuola. Sto pensando, Matteo, che il momento del ritorno a scuola, anche quando un padre arriva che accompagna un figlio, lo va a prendere al termine delle lezioni, poi c'è spesso ancora, c'è lo sguardo delle madri, che comunque immancabile, immancabile sì. Che ti guardano quasi come se fossi una specie di estraneo, sì, esatto. Posto sbagliato. Già senti nella chat di classe, insomma, quando sei lì. E tu hai avuto un'idea, visto che appunto che domani riaprono le scuole, dire, ma chi ci può guardare da fuori, chi ci può dire come siamo noi padri visti appunto nella quotidianità? E nessuno meglio di lei, credo, nessuno possa farlo. È un piacere e un onore avere qua con noi Luciana Littizzetto. Ciao. Ehi, Luciana, buona ciao domenica a tutti. Ciao, ciao. Buona domenica. Ciao, benvenuta, ciao. Luciana, ciao. È uno strano animale il padre, vero? Cioè. Ma guarda, io non sono più tanto avvezza alla scuola perché i miei due gini hanno finito la scuola da un pezzo, però comunque anche io l'ho frequentata, ho frequentato i padri che sono in realtà i padri molto presenti, almeno quando insomma ero mamma che portava i figli a scuola, io non erano tanti, cioè la maggioranza erano mamme anche molto chiacchierone, i maschi erano insomma più silenziosi e rari. Luciana, senti, ma da fine osservatrice della realtà quale sei, no? Quali tipologie di padri ti sembra di poter identificare fra i padri contemporanei? Guarda, allora, la prima cosa che a me stupisce sempre è che quando ti fanno le interviste a te che sei madre, ti dicono ma come fa a conciliare lavoro e figli? Io chiedo, ma sono le donne, cioè come dire, scusami, ma i figli sono i figli anche dei mariti o dei compagni, quindi i figli hanno anche dei padri, ma è raro che nelle interviste chiedano ad un padre, magari amministratore delegato, piuttosto che, non so, anche solo un impiegato statale, e dico, ma lei come fa a conciliare lavoro e figli? Cioè proprio non è contemplato, i figli sono a carico quasi completamente delle mogli, questo mi fa sempre strano. Beh, e poi ci sono dei maschi che non sanno nulla della vita pratica dei figli, tipo, cioè a me è capitato che magari dopo 5 anni mi dicesse, sì, ma scusa, ma Gigi va a scuola anche di pomeriggio? Amore, sì, cioè, dalla prima elementare che va a scuola anche di pomeriggio, tu volevi segnalare. Oppure, non so, ma Miriam, non sapevo che andasse a danza martedì e venerdì, pensavo andasse soltanto lunedì. No, va martedì e venerdì, cioè quelle robe lì. No, anche perché quando poi cerchiamo molte volte insomma di seguire, di fare la domanda giusta, è proprio il momento in cui la spariamo più. Sì, ma guarda, sì, che siete fuori tempo, cioè, ma anche parliamo del cibo, che è la cosa più semplice del mondo, no? Cioè, ci sono degli uomini che credono che il frigo si riempia da solo per una forma di magia un paio di volte alla settimana, cioè un fenomeno incredibile, no? E quindi cioè non contemplano neanche il fatto che appunto bisogna andare a fare la spesa, pensare cosa fare da mangiare, a Gigi che non mangia i peperoni, che non mangia questo, non mangia quell'altro, e a Miriam che non mangia quello, non mangia quell'altro. Cioè proprio quello non è assolutamente contemplato, no? Cioè la cena viene preparata, il frigo si riempie, c'è qualcuno che pensa a questa cosa per te. Poi per carità, molti sono presentissimi, il menage varia nelle coppie, però c'è sempre uno in famiglia che tira avanti la baracca e l'altro che segue un po', no? La vera collaborazione credo che la raggiungano poche coppie, dove entrambi hanno due doti, cioè sono elastici e concilianti, che è quello che bisogna avere per riuscire ad avere insomma una vita familiare non troppo pressante, credo. Ma tra l'altro, Luciana, a parte che tu insomma hai una famiglia, tu gestisci di fatto entrambi i ruoli in questo momento, sì, possiamo sì, dire sì, che sono sei un padre e madre. Padre e madre. Devo dire che come madre non sono un granché, però come padre devo dire che sono abbastanza brava. Ma a maggior ragione, guarda, allora se tu volessi dare un consiglio ai padri contemporanei, diciamo ai padri che ci provano, no? Uno solo, la cosa che tu ritieni più importante, che cosa chiederesti al di là di una maggiore presenza, come hai detto, insomma? Sì, ma guarda, io penso che in tutte le cose, ma soprattutto nella famiglia, sia non essere troppo egoisti, essere generosi, che vuol dire che a mille declinazioni, che vuol dire essere presenti, ma essere anche una persona che ascolta, essere una persona che si fa carico, esserci in qualche modo. Poi il mondo cambia da persona a persona, ognuno ha i suoi tempi, ognuno ha i suoi modi, però esserci in qualche modo per i figli lo capiscono. Ci sono anche tanti padri gelosi dei figli che si lamentano e vorrebbero essere loro al centro dell'attenzione, quelli sono i peggiori. La cosa bella è che sono spariti i padri padroni, che, però a me affascinano quelli autorevoli, cioè i padri che ti guardano e sanno già, cioè tu sei già figlio che sta per arrivare l'ora dei pavesini. La famosa papà. Tecnica dell'alzata di sopracciglia. Sì, quella roba lì a me piace un casino, cioè, io riesco solo a farla col mio cane, però è un inizio perché leggevo proprio in questi giorni che ho letto una frase bellissima, che i cani sono figli a bassa intensità, che è molto bello. Invece con i figli è un po' più difficile. Però l'autorevolezza, essere autorevoli, questo anche in realtà in altri campi della vita, cioè essere un riferimento. E poi a volte non servono tante parole, serve proprio la cosa più semplice, l'esempio, come ti comporti, come sei come persona. Quella roba lì insegna molto di più ai figli che non tutte le parole e le prediche. Certo. Luciano, un'ultima domanda, ma appunto nel dargli strumenti ai genitori, no? Che poi è un mestiere incasinato, lo sappiamo, e l'ironia che ruolo gioca? Ma guarda, secondo me funziona, è una cosa che alleggerisce il quotidiano. Viviamo in questo periodo veramente un quotidiano di una pesantezza inaudita, e quindi un po' di leggerezza serve, aiuta sia quando i bambini sono piccoli che quando sono grandi, e quando sono adolescenti che fanno tragedie per qualsiasi cosa. Quindi anche un po' insomma, alleggerire le cose, dare meno peso alle crisi esistenziali, non dire è successo anche a me, ma mi dispiace, però guarda, c'è questo film bellissimo, vediamolo insieme, secondo me può servire. Io penso sempre che la cosa importante con i figli sia il tempo facile, cioè non quello proprio strutturato, ma quello che, senti, devo andare a comprare le lampadine, vieni con me, quella roba lì, cioè una roba di compagnia, una cosa di anche senza parlare, però di condivisione, ecco quello. Bellissima, se no, è vero. Il tempo improvvisato. Il tempo improvvisato, quella la sana quotidianità. Ma poi tu, Matteo, io adesso non so, Federico, ma Matteo hai scritto un libro proprio su questi cioè sei presentissimo con le tue tre bimbe. Ho scritto un libro per disperazione. No, scherzo. Sì, è vero. Diciamo che io sono uno di quei padri che ci prova, però una cosa che ho imparato, cara Luciana, che è fare la peperonata, questo lo so. No, per quanto ci provi non sei mai abbastanza. Per fortuna. Ma figurati, ma almeno ci sono proprio due figli in affido, e quindi non ero mai, cioè, quando loro facevano le piazzate, dicevano in che famiglia sono finito, e io dicevo cavolo, e poi magari ero nel mio letto la sera e dicevo ma forse è veramente finito in una famiglia di merda, poteva capitare di meglio, e allora cominciavo a dire questo lo so fare, quell'altro avrei potuto essere meglio, quell'altro ancora. Però poi pensavo anche che i nostri genitori per esempio hanno fatto tanti errori, ma le hanno fatti, cioè non stavano tanto lì a sottilizzare, non a psicanalizzarsi, facevano anche un po' come potevano e come sapevano, con autenticità, con sincerità, e poi sbagliavano e sbagliavano. Luciana, grazie davvero per essere stata qua con noi ai Padri Figura. Eterni, sempre simpaticissima. Ciao e buona domenica. Grazie a voi, ciao. Grazie Luciana. Ciao. Adesso ci fermiamo, è il momento del traffico e poi prendiamo il treno. Essere, non essere, questo è il problema. Cosa andare a vedere nel weekend? Cosa arriva nella nostra città? No, Presidente, l'ave! Non sarà mai che i miei figli... Io lascio l'oltraggio dei miei nemici. Quali sono le prime più importanti? Siamo qua, in cerca di un autore. Cartellone, il rotocalco settimanale sul teatro, seleziona gli spettacoli migliori con interviste ad attori e registi. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.15 su Radio 24, oppure mi potete riascoltare su podcast, una tournée radiofonica per sognare in tutti i teatri d'Italia. Padri e Treni, ripasso in Italia. Cambia la sigla e cambia anche il nome, sì, perché è il momento di Padri e Treni. Come in ogni puntata vi diamo idee di viaggio, vi diamo consigli per fare un turismo vicino, un turismo in treno, attraverso il quale andare a toccare con mano contenuti che magari avete studiato a scuola. Quindi si viaggia, molto spesso si viaggia anche in giornata, e si va anche a ripassare o ad approfondire, insomma, tematiche che si sono così sfogliate sui libri. Qualche esempio? Beh, per esempio si può andare a Pestum, no? In provincia di Salerno, per vedere il fantastico parco archeologico di Pestum. Un vero e proprio viaggio nel tempo per scoprire l'architettura, l'arte, i riti, la cultura della Grecia antica. Questa era la prima fermata. La seconda fermata invece, a proposito di passato, c'è una stazione da non perdere, quella della città di Altamura in provincia di Bari, dove è stato trovato l'uomo di Neanderthal più vecchio del mondo, e lì c'è una suggestiva rete museale appunto per ripassare l'argomento. E poi terza fermata a Trieste, per andare a vedere il Museo dell'Antartide. Quindi bisogna vestirsi bene per andare a conoscere questo prezioso angolo di mondo e la storia degli esploratori più coraggiosi. Ma oggi il treno lo prendiamo anche noi, lo prendiamo proprio fisicamente, andiamo a Rovereto a conoscere il Museo della Guerra, quindi Rovereto è la stazione di oggi, e lì ad accoglierci c'è Francesco Frizzera, che è il direttore stesso del museo. Diamo subito il sito, che è museodellaguerra.it. Ciao Francesco, buona domenica. Buona domenica a voi, buongiorno. Allora Francesco, cosa si può apprendere o cosa si può ripassare venendo a visitare il Museo della Guerra? Per prima cosa direi che Rovereto è una meta ideale da visitare in treno, perché il centro cittadino è a misura d'uomo, percorribile a piedi dalla stazione, curatissimo, ed è dominato dal castello, da una rocca veneziana, l'unica rocca veneziana del Trentino, che ospita appunto il Museo della Guerra, un'istituzione che ormai sta per compiere 100 anni, è stata fondata nel 21 e che è diventata col tempo la più rilevante istituzione museale italiana che si occupa di conflitti. La peculiarità è duplice: in primo luogo è un museo nel museo, perché grazie a importanti lavori di restauro la visita del castello, che già di per sé è interessante di solito per i bambini, per i ragazzini, si arricchisce da quello che è il contenuto, si visita contenuto e contenitore assieme. In secondo luogo, il museo ha lasciato perdere tutta una serie di narrazioni di tipo nazionalistico, patriottico, che hanno caratterizzato la sua fondazione, ed è luogo di apprendimento permanente, con laboratori, attività per famiglie, e lo fa con un occhio rivolto al contemporaneo, l'analisi dei conflitti, tenta di spiegare anche cosa succede attorno a noi quotidianamente a distanze non siderali. Infatti questo è importante, no? Perché spesso i nostri ragazzi studiano la Prima Guerra Mondiale sui libri, poi sembra una cosa molto lontana, una cosa molto distante, no? Una cosa in bianco e nero, mi viene da immaginare, visto che loro vanno molto sul visivo. E quando arrivano lì invece cercate di portare queste tematiche anche alla contemporaneità, quindi... Gran parte dei nostri sforzi riguardano proprio le attività con famiglie, bambini. Il settore educativo è uno dei settori più sviluppati della nostra offerta, e partendo dal nocciolo della Prima Guerra Mondiale, che ha caratterizzato il territorio e che è un po' il nostro punto di partenza, andiamo ad interpretare il contemporaneo. Ad esempio abbiamo due mostre temporanee, una di natura fotografica e una più legata a Cimelli, allestita al momento. Una di queste due riguarda l'impatto che la guerra ha sulle popolazioni civili dell'Iraq, in particolare la mostra è stata realizzata con il sostegno di Emergency Italia. È una mostra fotografica che ritrae tutta una serie di scatti catturati poco a nord di Mosul, Erbil, un paio di anni fa, e che chiarisce come la guerra in realtà non sia fatta solo di militari, ma coinvolga purtroppo in primo luogo anche e soprattutto la popolazione civile, generando poi flussi migratori, spostamenti di massa e tutta una serie di conseguenze indesiderate che a noi sembrano molto lontane nel tempo, ma che ci toccano dopo nel momento in cui andiamo a trattare il tema dei migranti, per esempio, sulle nostre pelle. Certo, ma tra l'altro Francesco, guarda, visto che a pesare, no, proprio sull'attività dei musei in particolare, è stato l'azzeramento dell'attività didattica nelle scuole, ecco, mi permetto di suggerire ai padri che ci ascoltano, ai genitori che ci ascoltano: andate nei musei con i vostri figli. La maniera migliore per sostenere i musei è andarci insieme. Si vive una bellissima esperienza e, insomma, in più si passa del tempo insieme e ci si rende davvero utili per la cultura di questo paese. Francesco, un'ultima domanda: ma bambine e bambini, ragazze e ragazzi, con che occhi escono dal vostro museo? È bellissimo lavorare proprio con bambini e ragazzi, perché molto spesso entrano con determinate aspettative, si immaginano spesso il museo come luogo noioso, il museo della guerra, tra l'altro, così a quest'aura un po' di terrore, come se si vedessero solo armi. In realtà ne escono molto, molto anche trasformati dal punto di vista delle sensazioni che ricevono, anche di natura immateriale, per cui per noi è una sorpresa ogni volta che riusciamo a ospitare un gruppo classe o fare un'attività guidata o teatralizzata per famiglie. Grazie davvero a Francesco Frizzera, museodellaguerra.it è il sito per tutte le informazioni. Buona domenica, Francesco. Buona domenica a voi e grazie mille ancora. Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie a Pietro Lacorte oggi alla parte tecnica, Lorenzo Nespoli in assistenza, Danilo Di Trani che con noi ha scritto la puntata, ma il grazie più grande come sempre va a voi per essere stati in nostra compagnia. Ciao Matteo, buona settimana. Ciao Fede, buona settimana a te. Lo posso dire, lo dobbiamo dire, buona scuola a... Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.